Cristo, nostro bene, nasce da Maria Vergine in Betlemme di Giudea. Il palazzo che il supremo re dei re e signore dei signori teneva pronto per alloggiare nel mondo il suo eterno figlio, incarnato per gli uomini, era la più povera ed umile grotta dove Maria Santissima e Giuseppe si ripararono, rifiutati dagli alberghi, rifiutati dalla pietà naturale degli stessi uomini. Questo luogo era così abietto e disprezzato che quantunque la città di Betlemme fosse così piena di forestieri da mancare locande dove alloggiare, nessuno si degnò di occuparlo, né di abbassarsi fino ad esso. E certamente non era adatto se non ai maestri dell'umiltà e della povertà. Cristo, nostro bene, e la sua purissima madre. Essendo così abbandonato, la sapienza dell'Eterno Padre lo riservò ad essi, consacrandolo con gli ornamenti della nudità, della solitudine, della povertà. Primo tempio della luce, casa del vero sole di giustizia. Presto sarebbe nato per i retti di cuore, dalla candidissima aurora Maria, nel mezzo delle tenebre della notte, simbolo di quelle del peccato che coprivano tutto il mondo. Maria Santissima e Giuseppe entrarono in questo alloggio preparato per loro e, per lo splendore che emanavano i 10.000 angeli che li accompagnavano, poterono facilmente riconoscerlo povero e solitario come lo desideravano. Subito i due santi pellegrini, genuflessi, lodarono il Signore. Lo ringraziarono per quel beneficio che già sapevano essere stato disposto dagli imperscrutabili giudizi dell'Eterna Sapienza. Di questo alto mistero fu più capace la Divina Principessa Maria, perché nel santificare con i suoi piedi quella piccola grotta, sentì una pienezza di giubilo interiore che la sublimò. Pregò il Signore che rimunerasse con liberalità gli abitanti della città, i quali, con l'averla respinta dalle loro case, le avevano procurato tanto bene quanto ne attendeva in quell'umilissimo luogo. Questo era tutto fatto di macigni naturali, rozzi, senza alcuna particolarità. Era tale che gli uomini lo giudicarono adatto solo come rifugio di animali. L'Eterno Padre, però, l'aveva destinato ad essere abitazione e riparo del suo stesso figlio. Gli spiriti angelici, che come milizia celeste custodivano la loro regina e signora, si ordinarono in schiere, come facenti da corpo di guardia nel palazzo reale. Nella forma corporea ed umana che avevano assunto, si facevano vedere anche dal santo sposo Giuseppe. Infatti, era davvero opportuno che in quella circostanza egli godesse di questo favore, sia per alleggerire la sua pena, scorgendo così dovizioso, bello, quel povero alloggio, con le ricchezze del cielo, sia per sollevare ed animare il suo cuore ed elevarlo ancora di più, in modo che si trovasse disposto agli eventi che il Signore preparava per quella notte. La grande regina ed imperatrice del cielo, che già era informata del mistero da celebrarsi, voleva pulire con le sue stesse mani quella grotta. Ben presto doveva servire da trono regale, sacro propiziatorio, affinché a lei non mancasse l'esercizio dell'umiltà e al suo figlio unigenito quel culto che era quanto in tale occasione poteva preparargli come ornamento del suo tempio. Giuseppe, attento alla maestà della sua divina sposa, la supplicò di non privarlo di quel compito che in quel momento spettava a lui. Affrettandosi, incominciò a pulire il suolo, gli angoli della grotta. Ma non per questo l'umile signora evitò di fare lo stesso insieme a lui. Tuttavia, essendo presenti i santi angeli in forma umana e visibile, e a nostro modo di intendere, trovandosi come mortificati alla vista di così devota contesa di umiltà della loro regina, subito, con santa emulazione, si misero ad aiutarla, o per meglio dire, in brevissimo spazio di tempo, ripulirono e spazzarono la grotta, riempendola tutta di fragranza. San Giuseppe accese il fuoco con gli attrezzi che a tale scopo aveva portato con sé. Poiché il freddo era grande, vi si avvicinarono per riceverne un po' di sollievo. Mangiarono il povero cibo che avevano portato con incomparabile gioia delle loro anime. Sebbene la regina del cielo e della terra, essendo prossima l'ora del santo parto, fosse tanto assorta, rapita nel mistero, che non avrebbe mangiato niente se non si fosse frapposta all'obbedienza allo sposo. Una volta terminato di mangiare, ringraziarono il Signore, come facevano sempre. Dopo essersi trattenuti per breve tempo in tale ringraziamento e nel parlare tra loro dei misteri del Verbo incarnato, la prudentissima Vergine, che sapeva vicina l'ora del suo felicissimo parto, pregò lo sposo Giuseppe di ritirarsi a riposare, a dormire un poco, perché la notte era già molto avanzata. Il santo uomo ubbidì alla sua sposa, le chiese che ella pure facesse lo stesso. A tal fine aggiustò e preparò con i panni portati con sé una mangiatoia piuttosto larga, posta in terra per gli animali che vi si riparavano. Lasciando così sistemata in questa sorta di letto Maria Santissima, Giuseppe si ritirò in un angolo della grotta, dove cominciò a pregare. Subito fu visitato dallo Spirito Divino. Sentì una forza soavissima, straordinaria, da cui fu rapito ed elevato in un'estasi in cui gli fu mostrato tutto ciò che avvenne in quella notte nella fortunata grotta. Perché non riprese i sensi fino a che non lo chiamò la Divina Sposa. Il sonno di San Giuseppe fu più sublime e più felice di quello di Adamo nel paradiso terrestre. La regina delle creature, nel luogo in cui si trovava, fu nel medesimo tempo mossa da una forte chiamata dell'Altissimo, con un'efficace e dolce trasformazione. La sollevò al di sopra di tutte le cose create e sentì nuovi effetti del potere divino. Questa estasi fu infatti una delle più belle ed ammirabili della sua santissima vita. Immediatamente andò elevandosi sempre più con nuove luci, nuove qualità che le diede l'Altissimo. Giunse con esse alla visione chiara della divinità. Così disposta, le fu aperto il velo e vide intuitivamente il medesimo Dio con tanta gloria e pienezza di conoscenza che nessun intelletto angelico e umano può spiegarlo né adeguatamente intenderlo. Fu rinnovata in lei la cognizione dei misteri della divinità ed umanità santissima del suo figlio, che in altre visioni le era stata data. Le vennero nuovamente manifestati altri segreti, racchiusi in quell'archivio inesauribile del cuore di Dio. L'Altissimo rivelò alla sua madre vergine che era già tempo di uscire nel mondo dal suo talamo virginale. In quale modo questo si doveva compiere ed eseguire? La prudentissima signora conobbe in questa visione le ragioni e i fini altissimi di così ammirabili opere, di così grandi misteri, sia da parte del Signore, sia per ciò che riguardava le creature, per le quali erano immediatamente ordinati. Ella si prostrò dinanzi al trono regale di Dio, rendendogli grazie e gloria, dandogli magnificenza e lode a nome proprio e di tutte le creature, per tanta ineffabile misericordia, degnazione del suo immenso amore. E chiese a Sua Maestà nuova luce, nuova grazia per operare degnamente nel servizio e nell'educazione del Verbo incarnato, che ella avrebbe stretto tra le sue braccia, alimentato con il suo latte. La Divina Madre fece questa preghiera con profondissima umiltà, perché comprendeva l'altezza di un così nuovo mistero, quale era l'allevare e il comportarsi come madre verso Dio fatto uomo. Si reputava indegna di tale compito, all'adempimento del quale i più alti serafini erano inadatti. Umilmente e prudentemente la madre della sapienza pensava e ponderava tutto ciò. Inoltre, poiché si abbassò sino alla polvere, si annientò tutta alla presenza dell'Altissimo, Sua Maestà la innalzò, le diede nuovamente il titolo di madre sua. Le comandò che, come madre vera e legittima, esercitasse questo ufficio e ministero, e lo trattasse come figlio dell'Eterno Padre e unitamente come figlio delle sue viscere. Vena ragione si poté affidare tutto questo ad una simile madre. Maria Santissima rimase in questa estasi più di un'ora, quella immediatamente precedente il suo parto divino. Uscendo quindi da questa visione beatifica, e proprio mentre riprendeva i sensi, riconobbe e vide che il corpo del bambino Dio si muoveva nel suo grembo virginale, distaccandosi da quel luogo naturale dove aveva dimorato 9 mesi. E già stava per uscire da quel sacro talamo. Questo movimento del bambino non solo non provocò alla Vergine Madre dolore o pena di sorta, come alle altre figlie di Adamo ed Eva in tale situazione, ma anzi la riempì di giubilo, di gioia incomparabile, dando origine nell'anima e nel corpo virginale di lei ad effetti così alti e divini da sorpassare ogni pensiero creato. Ella rimase nel corpo tanto spiritualizzata e talmente bella e rifulgente che non pareva neppure una creatura umana, terrena. Il volto, bellissimo, emanava raggi di luce, come sole. L'espressione grave, piena di maestà ammirabile, il cuore infiammato, fervido. Stava genuflessa nella mangiatoia, gli occhi sollevati al cielo, le mani giunte strette al petto, lo spirito immerso nella divinità, tutta divinizzata. In questa posizione, sul finire di questa estasi divina, l'eminentissima signora diede al mondo l'unigenito del Padre suo. Il nostro Salvatore Gesù, Dio e uomo vero. A mezzanotte, in giorno di domenica, nell'anno 5199 dalla creazione del mondo, come la Chiesa romana insegna. Al termine della visione beatifica e dell'estasi della Madre sempre Vergine, nacque da lei il Sole di Giustizia, figlio dell'Eterno Padre e suo, bellissimo, rifulgente, puro. La lasciò ancora più divinizzata, consacrata nella sua integrità e purezza. Infatti, non divise, ma penetrò il chiostro virginale, appunto come i raggi del sole che, senza danneggiare una vetrata cristallina, la penetrano, lasciandola più bella e risplendente. Il bambino nacque solo, puro, senza quella membrana che chiamano secondina, nella quale vengono ordinariamente alla luce gli altri bambini e in cui sono avvolti nel grembo delle loro madri. Il braccio onnipotente dell'Altissimo prese e scelse dalla natura tutto quello che apparteneva alla verità, alla sostanza della generazione umana, affinché il Verbo fatto uomo vero si definisse realmente concepito, generato, nato come figlio dalla sostanza della sua madre sempre vergine. Il fatto che ella fosse vergine nel concepire e nel partorire per opera dello Spirito Santo, restando poi sempre vergine, non le impediva di essere vera madre. Inoltre, anche se la natura, senza sua colpa, avrebbe potuto perdere questo privilegio, sarebbe mancata alla Divina Madre una tanto rara e singolare eccellenza. E affinché ella non ne rimanesse priva, gliela concesse il potere del suo Figlio Santissimo. Il bambino Dio avrebbe anche potuto nascere con la detta membrana, come gli altri. Ma questo non era necessario per nascere come figlio della sua legittima madre e perciò non la portò con sé dal materno grembo virginale. D'altra parte, questo parto non pagò alla natura neppure gli altri tributi di minor purezza che normalmente si versano. Non era giusto che il Verbo incarnato passasse per le leggi comuni ai figli di Adamo. Anzi, era come conseguente al miracoloso modo di nascere che questo fosse privilegiato, libero da quanto avrebbe potuto essere materia di corruzione o di minor purezza. Dal talamo virginale, dunque, il bambino Dio nacque solo e senz'altra cosa materiale o corporea che lo accompagnasse. Ne uscì però glorioso, trasfigurato, perché la sapienza infinita dispose ed ordinò che la gloria dell'anima santissima ridondasse e si comunicasse al corpo del bambino Dio al momento di nascere, partecipandogli le doti di gloria, come avvenne poi sul monte Tabor, alla presenza dei tre apostoli. Questa meraviglia non fu necessaria per penetrare il chiostro virginale e lasciarlo intatto, perché senza queste doti Dio avrebbe potuto fare altri miracoli, in modo che il bambino nascesse lasciando vergine la madre, come dicono i santi dottori, i quali non conobbero altro mistero in questa natività. Tuttavia, la volontà divina fu che la prima volta la Beatissima Madre vedesse il suo figlio, uomo Dio, glorioso nel corpo, e ciò per due fini. Il primo consistette nel far sì che alla vista di quell'oggetto divino, la prudentissima madre concepisse l'altissima riverenza con la quale doveva trattare il suo figlio, vero Dio e vero uomo. E anche se era stata prima informata di tutto ciò, il Signore dispose che con tale mezzo le venisse infusa nuova grazia, corrispondente all'esperienza che faceva della divina eccellenza del suo dolcissimo figlio, della sua maestà, della sua grandezza. Il secondo fine di questa meraviglia fu premiare la fedeltà e la santità della Divina Madre, affinché i suoi occhi purissimi e castissimi, che si erano chiusi a tutte le cose terrene per amore del suo Figlio Santissimo, lo vedessero subito nel nascere con tanta gloria e ricevessero quel godimento in premio della loro fedeltà e castità. L'Evangelista San Luca dice che la Madre Vergine, avendo partorito il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Ma non spiega chi lo mise fra le sue braccia dopo che fu uscito dal grembo, perché questo non era nel suo intento. I ministri di questa azione furono i due principi sovrani, San Michele e San Gabriele, i quali, poiché assistevano in forma umana corporea al mistero, nell'istante in cui il Verbo incarnato, penetrando per virtù propria il talamo virginale, uscì alla luce, dalla dovuta distanza lo presero nelle loro mani con incomparabile venerazione. Poi, come il sacerdote mostra al popolo l'ostia sacra perché l'adori, così appunto questi due ministri presentarono agli occhi della Divina Madre il suo figlio glorioso e rifulgente. Tutto questo successe in un breve spazio di tempo. Ora, nel momento in cui i santi angeli presentarono il bambino Dio a sua madre, il figlio e la Madre Santissima si guardarono reciprocamente, rapendo ella il cuore del dolce bambino, e restando nel tempo stesso elevata e trasformata in lui. Il principe celeste, dalle mani dei santi arcangeli, parlò alla sua felice madre. Le disse: «Madre, assimilati a me, perché per l'esistenza umana che mi hai dato, voglio darti da oggi in poi una nuova esistenza di grazia più sublime, che pur essendo propria della semplice creatura, assomiglia al tempo stesso alla mia per imitazione perfetta. Rispose la prudentissima madre: «Attirami, o Signore, e dietro di te correremo al profumo dei tuoi unguenti». Qui si compirono molti degli arcani misteri del cantico e tra il bambino Dio e la sua madre vergine intercorsero altri divini colloqui di quelli che vi sono riferiti, come: «Il mio diletto è per me e io per lui. La sua brama è verso di me. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono colombe. Come sei bello, mio diletto, e quanto grazioso